A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Aspettando che cosa? Un sacco di cose in realtà. Questa sera la nazionale più nazional popolare possibile, con la Costa d'Avorio, con Cassano col 10, Balotelli col 9, e lo sappiamo bene, aspettando sempre in chiave azzurra le finali di nuoto, perché dopo la magra di ieri con Alessia Filippi, oggi Pizzetti e Cobertaldo con grandi tempi in finale nei 1500 stile libero, Cagnotto e Marconi, Tania Cagnotto e Maria Marconi in finale nel trampolino da un metro. Aspettando però anche che si muova qualche foglia sul mercato, perché ieri in diretta vi ho raccontato di qualche lampo che è uscito via agenzia, ma ormai i colpi sono quelli che non si fanno, almeno questa è la mia impressione, come ha fatto ieri l'Inter con Maicon. E per questo e per cominciare a parlarne insieme anche con voi naturalmente come ogni giorno, 800 24 00 24, telefonate, messaggi 349 238 6666, siete bravissimi, chiamate in un sacco e ci teniamo compagnia lungo questa estate. Per parlare, tanto per cominciare, dei colpi, quelli che non si fanno, Fabrizio Ferrari, avvocato, procuratore, agente FIFA e amico mio. Ciao Fabrizio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, l'Inter non fa il colpo, il Real Madrid non fa il colpo di Maicon, lo fa l'Inter che lo tiene. L'Inter però non prende, ma ha detto Moratti, non prendiamo Mascherano, non entrano soldi, non escono soldi, nessuno si muove. No, nessuno si muove, è un mercato veramente strano quest'anno, dove veramente, come dicevi tu, i colpi veri sono quelli di non vendere i giocatori forti. Sì. E questo succede in Italia, ma succede anche all'estero, succede in Inghilterra, dove il Chelsea fa un trasferimento, dove il Manchester fa un trasferimento, squadre abituate a fare 5-6 trasferimenti, ed è un po' figlia della crisi economica, ma anche del fatto che non ci sono più tantissimi campioni e che i costi sono talmente elevati che i presidenti si sono un po' stufati e dicono: beh, io non lo prendo più, non lo prendo più. E il Barcellona invece muove qualcosa, perché qualcosina deve fare. Oggi un'agenzia dice ci potrebbe essere questo accordo con Ozil, per Ozil. Sì, Barcellona un colpo all'anno lo deve fare, è anche strutturato in modo diverso la Spagna, dove il presidente deve farsi un po' di pubblicità perché è fatto, certo, eletto, e quindi chiaramente deve aiutarsi con le pubblicità acquistando un campione all'anno, e Ozil è un giocatore straordinario che sarebbe consigliabile al 99% delle squadre italiane. Senti, tu che sei del mestiere, spiegami un altro, per me mezzo mistero, insomma. Ieri esce anche questa notizia, Krasic d'accordo con la Juventus, come Balotelli è d'accordo col City, mi risulta, però sembra. Poi ci vogliono i soldi per pagarli al club. Sì, guarda, non mi dire questa cosa perché mi ricorda un episodio dell'anno scorso con Sissoko al Milan, quindi guarda, sì, mi viene tristezza. Ricordo bene, no? Sì. Seguisti da vicino, anche lì quel mancato colpo. È molto simile a questo, nel senso che c'era un sostanziale accordo col giocatore, ma che poi le società disattesero perché non sono riuscite a trovare un accordo. E adesso credo che l'affare di Krasic, se c'è la volontà della Juventus, si possa fare, perché sarà un'operazione da ultimo giorno di mercato. Le altre sono un pochino più complicate. Quanto a Diego, c'è un messaggio. Buongiorno, cosa ne pensa di Diego? È proprio da bocciare, non ha mai convinto, scrive Loris da Pordenone. Diego pare, c'erano i dirigenti. So cosa dire su Diego, perché è un giocatore che giocava talmente bene in Germania che in Italia ha fatto, credo, 3 partite. Sì. Importanti, il resto da 4,5, 5 purtroppo. Poi magari ne parliamo con uno che l'ha allenato. Ecco, potrebbe, sì, lo conosco, secondo me lui lo sa meglio. Più tardi abbiamo questo mezzo appuntamento. 800 24 00 24, l'appuntamento con gli ascoltatori sempre invece. Maurizio da Roma il primo. Dimmi ancora una cosa, altro mezzo mistero per me, il Milan che fa il mercato di rimbalzo, adesso prende Boateng via Genoa. Giuro che non lo capisco, cioè è la prima volta che il Milan fa delle operazioni del genere, si fa dare i giocatori dal Genoa, che era una cosa che una volta si faceva al contrario. Appunto, prendi il giocatore e lo dai a Genoa. In soprannù, in esubero, esatto. Personale in esubero a Genoa. No, assolutamente, perché poi dopo sembra che io sia sempre qui a parlare male del Milan, e ti posso assicurare che non è così, perché io adoro i dirigenti milanisti, però mi sembra che veramente in questo momento la strategia del Milan sia un po' farraginosa. Farraginosa. Maurizio da Roma, Riccardo da Cuneo. Vi do un'altra notizia che è bellissima, cioè bellissima, è molto curiosa, a te che sei avvocato, tra le altre cose. Ecco. I tempi della giustizia italiana, sappiamo, sono abbastanza lunghi. Immaginati quelli della giustizia argentina. Senti questa che è uscita stamattina. Il centrocampista della Juventus, Mauro German Camoranesi, è stato condannato dalla magistratura argentina, causa civile, a pagare 200.000 pesos, cioè 38.000 euro, per lesioni procurate a un avversario durante una partita giocata 16 anni fa. Guarda, al di là del fatto che è di una partita giocata 16 anni fa, secondo me Camoranesi non se la ricordava nemmeno. Però, guarda, in realtà c'è un sottofondo importante su questa notizia, perché il fatto che venga punito un giocatore a pagare per delle lesioni durante una partita, che ti posso assicurare non è un argomento da poco, no, che dovrebbe in realtà prendere 10 appuntamenti. Magari con te un giorno ti paghiamo una parcella, un giorno vi ringrazio moltissimo. Maurizio da Roma, buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Allora io vorrei porre due quesiti, uno sulla nazionale. Sì, siccome volentieri. Al di là della la nazionale, appunto, nazional popolare, no? Sì. Quindi giocano Cassano, gioca Balotelli, però a me quello che mi fa impressione, adesso sarà una prima convocazione, un amichevole, comunque rivedere Molinaro mandato via dalla Juventus a sinistra, sì. E quindi vorrei che voi, insomma, come esperti sicuramente migliori di me, mi elencasse un po' alcuni giocatori, soprattutto per quanto riguarda i ruoli difensivi, perché diciamo un po' da i centrocampisti esterni in avanti, sì. Credo che poi ci siano non tanti problemi, ma per esempio l'esterno destro invece, diciamo, chi dovrà sostituire Camoranesi, per il momento per il solo Pepe, sì. Mi sembra una cosa un po' riduttiva, quindi il vostro parere su chi potrebbe giocare in difesa, sì. Nel prossimo futuro in Italia, sì. Con l'Italia, e poi l'altra riguarda appunto alla crisi del calciomercato. Dunque, se in questo momento c'è una crisi generale economica, no? Io vorrei che voi, se avete una spiegazione, mi spiegasse come mai un giocatore come Batista, lo prendo come emblema, no? Rifiuta un trasferimento al Galatasaray, se non mi sbaglio, sì. Che è disposto a dargli 3 milioni l'anno, 3 milioni, 6 miliardi delle vecchie lire, uh-huh. Ricordiamolo sempre, più premi che fanno 3-2, 3-3, uh-huh. Quindi non si vuole muovere da Roma, e quindi come mai i presidenti, nonostante la crisi, continuano a pagare ingaggi così spaventosi, e anche i giocatori in compravendita per acquistare il cartellino, si parla adesso di 30-35, c'è anche lo stesso Balotelli, ho chiuso al City, no? Per un ragazzo di 19 anni, ma una squadra può spendere 35 milioni di euro. Vi ringrazio e vi saluto, grazie, buona trasmissione. Grazie a lei Maurizio. La seconda parte della domanda naturalmente la lascio a Fabrizio Ferrari, quanto a Molinaro mi limito a notare, abbiamo parlato anche ieri, sono molto contento di questa convocazione personalmente, perché Molinaro, non fosse altro per il motivo che Molinaro è uno dei pochi italiani all'estero che è riuscito a fare una stagione assolutamente dignitosa da titolare in Germania. Quanto al resto sappiamo bene come sia, non sia la prima scelta, perché Criscito è infortunato. E poi io non mi dimentico e non voglio dimenticarmi quanto a quei ruoli difensivi, soprattutto laterali, di Santon, che ha passato una stagione pessima tra un infortunio e l'altro, però non posso dimenticare i lampi che ha lasciato nell'annata precedente. Santon, io credo, voglio continuare a credere, sia il futuro della nazionale italiana sulla fascia difensiva destro sinistra, poi secondo me non fa così tanta differenza. Fabrizio, sei concordo d'accordo? Concordo, perché è un giocatore dalle potenzialità fisiche incredibili, e chiaramente quest'anno ha subito il passaggio di un certo tipo di allenamento, di una pressione completamente diversa, di un'abitudine a giocare ad altissimi livelli per molto tempo. Probabilmente il suo fisico ne è risentito, ma è un giocatore su cui dobbiamo assolutamente puntare. Un italiano forte, un italiano che può giocare a destra e a sinistra con la stessa forza, con la stessa, sì. Facilità. Quindi quanto, importante. Quanto alla questione di mercato, Battista che non si muove. Ma Battista non si muove, perché se io devo scegliere, e sono Battista, se stare a Roma o stare al Galatasaray con uno stipendio garantito importante a Roma e uno stipendio al Galatasaray, dove sì, è vero, ma probabilmente uno stipendio anche maggiore, ma un club di minore importanza con una risonanza minore, io non ci vado. Mi sembra giusto, anche perché, ma perché devo pagare soldi? Ci sono contratti, nessuno tanto, ha puntato chi frega una pistola lui? Alla testa. Poi di... è chiaro che per la Roma sarebbe un business pazzesco cedere Battista, che tanto non giocherebbe titolare e guadagna un sacco di soldi, quindi un risparmio incredibile per la Roma. Però purtroppo, quando tu hai un contratto che ti garantisce di guadagnare un certo ammontare di soldi, delle volte anche il giocatore pensa: ma chi me lo fa fare? Sto, certo. Qui e tanto, certo. Li prendo. Il discorso che grosso modo fece Kakà col Manchester City, no? Più o meno. Il Milan voleva venderlo, però ho detto: ok, mi volete vendere, Ma mi scelgo la squadra io. Vado al City, andate voi. Esatto. Ci fermiamo, traffico, Riccardo da Cuneo subito dopo. A tempo di sport. Fabrizio Ferrari, Sandro Daovada se l'è un po' presa con te, perché secondo lui hai nominato il Genoa con disgusto, ma non credo. No, siamo gli unici che anzi, fanno mercato. No. Il Genoa è incredibile, mi ha stupito per la sua forza sia a livello economico sia a livello di ricerca dei giocatori, perché sono pazzeschi. Cioè adesso vogliono prendere Insua, poi prendono Boateng, poi hanno preso e quello ancora. Cioè, onestamente, quello che dicevo io è che sono loro il Milan. Certo, cioè, no, questo è il senso. Sai, ma il tifo fa brutti scherzi. Ma li capisco, li capisco. Il tifo fa brutti scherzi. Il Genoa deve solamente passare la prima fase europea. Sì, sicuro. E a quel punto lì, io credo che dopo i tifosi si possano veramente divertire. Anche se, oggi l'ho cercato peraltro, mi farebbe piacere uno di questi giorni se abbiamo... anche lì un mezzo appuntamento, vorrei fare due chiacchiere con Gasperini, perché l'altro giorno ha detto una cosa molto interessante, cioè i club spesso ormai non prendono più giocatori funzionali alla squadra, perché servono alla squadra, ma prendono giocatori per fare un affare economico, lo prendo, lo valorizzo, lo cedo, e cosa che il Genoa è riuscito a fare benissimo negli ultimi anni. Riccardo da Cuneo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Un saluto a lei e al suo ospite. Allora, velocissimamente, ieri parlando di Amaurì nella nazionale, ha tirato in ballo il rugby, quindi tira in ballo la mia passione personale. Io voi non mi ricordo più, comunque sì, il rugby c'entra nel discorso. Sì, c'entra molto, però diciamo che il rapporto rugby-calcio è un po' diverso, in questo senso. Il calcio credo abbia, forse non esagero, 1 milione di tesserati. Mm. Il rugby arriva a stento a 100.000, ma non sono nemmeno sicuro che arrivi a 100.000. Sì. Quindi c'è un rapporto di 1 a 10 quantomeno. E sicuramente c'è un rapporto anche regionale, nel senso che il calcio si gioca in tutta Italia, il rugby purtroppo per me, perché sono veneto ma vivo in Piemonte, si gioca in Veneto. Sì. E un po' in Emilia e nelle enclave storiche, nell'Aquilano, a Roma e in Sicilia. Quindi per far valere uno sport in Italia, purtroppo, come penso in tutte le nazioni, ma in Italia in particolar modo, bisogna vincere, punto e basta. Sicuro? Per far vincere il rugby purtroppo bisogna prendere gli oriundi, c'è no, no, di, ma, oriundi, ma, stranieri o qualsiasi altra cosa. Ma guardi che io sono d'accordo. Nel calcio non sono convintissimo che sia necessario così, perché no. Sono convinto che se andiamo a guardare, io sono convinto che ci siano dei giocatori di Serie B che sono, non dico all'altezza di Amaury, ma magari giovani e pronti a maturare, e sono juventino. Al di là della squadra per cui fa il tifo, non lo so se ci sono giocatori di Serie B all'altezza di Amaury. Certo, Milito ad esempio è stato colpevolmente scoperto molto tardi, magari anche sì, però insomma questo è un discorso molto largo. Quello che dico io è che non trovo nulla di scandaloso, di peccaminoso nel fatto di convocare un giocatore che ha le carte in regola per giocare in nazionale. Poi possiamo discutere sul fatto che la questione non sia della massima eleganza, con Amaury che ha detto voglio il Brasile, poi il Brasile nel Brasile non c'è andato, adesso può giocare nella nazionale italiana e allora adoro questa maglia. Però insomma, come dicevo ieri, io non sarò anche cinico, ma Biancaneve 7 anni nel bosco non credo più, quindi per un professionista estremamente importante, ma non solo per Amaury, per qualunque professionista anche italianissimo, è importante giocare in nazionale, dunque sono convinto che Amaury abbia accettato di buon grado questa convocazione, anzi sarebbe andato a nuoto in Inghilterra pur di giocare questa sua prima partita con la maglia della nazionale. A proposito di nazionale, caro Fabrizio, ieri abbiamo sentito Aldo Serena, con cui abbiamo chiacchierato di varie cose. Aldo Serena ne ha detta una che volevo farti sentire. Prandelli è un allenatore che ormai ha una grande esperienza, un'esperienza di giovani. Avrei visto, ecco, vicino a Prandelli suo mentore che era Favini, ecco, che è stato quello che lo ha di fatto aiutato nella sua crescita a fare l'allenatore. Sì. Mino Favini, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Sentito, Aldo Serena ha detto una cosa Aldo. Molto giusta. Non so, è una cosa che fa piacere, perché io ho avuto anche Aldo Serena, anche se per un anno solo come giocatore, ancora quando ero responsabile al Calcio Como. Lo ricordo sempre come un ragazzo, a parte come era un ottimo calciatore, ma anche come un ragazzo, una persona in gamba, quindi evidentemente mi contraccambia nella stessa misura, sì, riconoscendomi magari come mentore di Cesare Prandelli, col quale ho iniziato qui a Bergamo il mio lavoro, e lui ha iniziato la sua carriera da buon allenatore coi giovani, per poi diventare un allenatore professionista di livello fino ad arrivare alla nazionale. Dai giocatori ne ha visti passare un sacco, non solo ne ha visti passare, ne abbiamo visti passare tanti assieme, sì, è vero. Senta, Prandelli l'ha visto ragazzino, poi giocatore, poi allenatore. Cosa può... Io me lo ricordo giocatore naturalmente, l'ho visto allenatore alle prime armi, cioè da allenatore della squadra degli allievi nazionali, col quale vinse subito il titolo di campione d'Italia e vinse anche l'anno successivo con la Primavera, divenne campione d'Italia Primavera e anche vinse il torneo di Viareggio, quindi aveva iniziato col boom, seppure nel settore giovanile. Fabrizio Ferrari, Mino Favini è il settore giovanile dell'Atalanta. Aldo Serena faceva questo discorso, ma non gratis, nel senso diceva: hanno chiamato Baggio, hanno chiamato Sacchi, hanno chiamato Gianni Rivera. Io vicino, sono manovre, sono tutte mosse in teoria giustissime, anche qui in teoria di largo consenso, no? Però per operare sul campo, e se si vuole davvero lavorare duro sui giovani, un ruolo a uno come Mino Favini nella struttura azzurra poteva avere un grande senso. Assolutamente, perché come diceva Aldo Serena, Mino Favini ha lavorato all'inizio con Prandelli, conosce benissimo il settore giovanile italiano perché lavora da anni in uno dei settori giovanili che deve fare fra virgolette nozze coi fichi secchi, nel senso che deve veramente lavorare con i giocatori del territorio, perché l'Atalanta da sempre è una squadra che prende giocatori del territorio e li fa crescere, ci lavora e cerca di trovare talenti fra quelli che ci sono nel Bergamasco o lì attorno. Poi chiaro, qualche giocatore da fuori arriva, però è sempre una squadra veramente fra virgolette italiana, sì, quella, sì, dell'Atalanta, sì, e Favini, sì, ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni, quindi insomma escono sempre dei giocatori incredibili dall'Atalanta, e Favini poteva essere effettivamente un personaggio da affiancare, soprattutto con quello che è la politica adesso della federazione, sì, cioè quella di lavorare su giocatori giovani di talento, di privilegiare la tecnica. Sì, no, questo certo, anche se ieri dicevo non possiamo fare il verso alla Spagna, perché ognuno ha le sue caratteristiche, sì, e se concordo, non dobbiamo dire vogliamo diventare come la Spagna, però lavorare sulla tecnica senz'altro, Mino? Sì, la penso esattamente così. Io dico che in questi ultimi anni si è trascurato un po' l'aspetto tecnico e bisogna tornare alle origini, cioè, ma prima ancora che pensare alla formazione del giovane calciatore, bisogna pensare alla formazione dei tecnici. Bravo. No? Che addestrano i giovani calciatori. Ma certo. E bisogna ritornare un attimino a pensare al completamento dei fondamentali, dopodiché si può pensare durante la crescita dei giovani calciatori, si può pensare anche all'aspetto fisico, all'aspetto atletico, all'aspetto tattico, ma in una prima fase di formazione l'aspetto puramente tecnico è secondo me fondamentale. Ma io dico sempre che il vero investimento nel settore giovanile è, i veri investimenti sono due, in istruttori e in strutture, questi sono gli investimenti fondamentali da fare. Mino, volevo chiedere ancora una cosa giusto per sgombrare il campo da un altro equivoco. Prima Fabrizio Ferrari diceva l'Atalanta lavora su giovani del territorio, però qui c'è un grande equivoco che gli ascoltatori tutti i giorni sottolineano. Anche nei settori giovanili arrivano un sacco di ragazzi dall'Africa, dall'est europeo, da molti altri paesi, e spesso, sì, sono ragazzi che hanno fame, hanno voglia di emergere anche più dei nostri. Bisogna capire che per una squadra professionistica come l'Atalanta, insomma, per le squadre professionistiche questo è il presente, non il futuro, questo è il presente. Esatto. Allora, abbiamo anche noi dei ragazzi di colore africani nell'ambito del settore giovanile, però sono ragazzi che non siamo andati a prendere là, li abbiamo trovati qui nella zona, a Lecco più che a Cremona, a Como più che a Crema, quindi sono ragazzi che abbiamo selezionato qui attorno e li abbiamo inseriti nel nostro settore giovanile, e qualcuno con buonissimi risultati, insomma. Certo. Senta, le chiedo ancora questo su Prandelli. Oggi leggevo Mario Sconcerti, dice Prandelli è un po' orso, abbastanza permaloso. Poi leggevo invece un articolo sulla Gazzetta dello Sport di quando ha smontato la stanza di Mondonico. Com'è Prandelli fuori dal campo? Come sono Ha ragione Mondonico. Ha ragione non è Mondonico. Per niente permaloso. Cesare è una persona squisita, al di là dell'allenatore, che evidentemente ha dimostrato di avere capacità e non c'è bisogno che lo dica io, no? È una persona squisita nel senso che a livello naturale sa farsi voler bene dai giocatori, è corretto, è sincero, è schietto, è diretto anche nell'espressione delle proprie idee, dei propri concetti, quindi io non lo ritengo, non ricordo che Cesare possa essere una persona permalosa, assolutamente no. Io la saluto. Sì, no, quindi è come dice lei, conoscendolo un poco, la saluto con due messaggi. Uno è questo: Lori da Milano, per favore clonate Favini, uomo di spessore, gran conoscitore dei calci, uno dei pochi. E l'altro è questo: vi prego di portare i miei complimenti al grande Mino Favini, simbolo dell'Atalanta e di Bergamo. Questi sono i nostri ascoltatori. Grazie, io non so come ringraziare. Niente, torni a trovarci. Quando la chiamiamo sappiamo che la troviamo, e questo è il ringraziamento. Vabbè. No, ci mancherebbe. Io vedrò Favini sui campi. Tu vedi Favini sui campi. Grazie Mino, buon lavoro. Grazie davvero. Arrivederci a tutti voi. L'hai sentita, l'hai letta, no, Fabrizio, di quando Prandelli ha smontato in ritiro? No, non sapevo. Non sapevi? No. Erano in ritiro l'Atalanta, lui giocatore, Mondonico allenatore, e lui e Stromberg forse, poi ti cerco chi era il complice, sono armati di cacciavite eccetera, sono entrati nella stanza di Mondonico, gli hanno smontato tutto quello che c'era dentro, letto, armadio eccetera. Poi Mondonico gli ha fatto un mazzo così, e Prandelli l'ha guardato e gli ha detto: ma mister, ma non crederà mica che io possa fare una cosa così. Ciro da Napoli, buongiorno. Buongiorno, dottor Genta. Vorrei un saluto a lei e al suo ospite e ad ascoltatori. Volevo fare una considerazione e porre una domanda. Prego. La considerazione è praticamente su Maicon. Secondo me è stato giusto non venderlo perché non è arrivata l'offerta giusta, e siccome è un campione, lo reputo tale almeno, e quindi al suo prezzo, quindi Moratti ha fatto bene a toglierlo dal mercato. Poi sicuramente l'Inter so farà cassa vendendo Burdisso, Muntari, e poi magari prenderà Macerano ad un prezzo più basso alla fine del mercato. È una domanda però che mi sta un pochino incuriosendo: ma Benitez doveva aspettare la fine della tournée americana per dire Maicon è indispensabile? Un allenatore del genere non lo conosceva da prima, oppure aveva timore a penetrare? Secondo me gliel'hanno fatto dire alla fine della tournée americana. Gliel'hanno fatto dire, pensavo alla storia di Biancaneve settimana, gliel'hanno fatto dire alla fine della tournée americana, perché il discorso è molto semplice. L'Inter che è diventato un osso durissimo sul mercato, no Fabrizio, sai qualcosa? Giustamente. Dice: i soldi per Maicon, i soldi che servono per Maicon sono questi. Non di meno ce lo teniamo, visto che non è che non c'è questa esigenza stringente, ce lo teniamo, non è arrivata l'offerta che serviva, e dunque Maicon è rimasto all'Inter, evidentemente con tutta la felicità del mondo da parte di Benitez, sia durante la tournée americana che prima che dopo, questo non ho dubbi. Stefano da Prato, poi c'è la borsa. Sì, buongiorno. Senta, io sono fastidioso, ritorno in cuffia, comunque cercherò di non farci caso. Mi unisco al coro di complimenti a Favini. Una cosa veloce sulla nazionale. Innanzitutto sono contento sia finita l'era Lippi, un allenatore che io francamente non ho mai amato, ho sempre considerato presuntuoso, arrogante, che godeva di una stampa un po' morbida, se mi consente, cioè il coraggio che si vedeva nelle conferenze stampa quando c'era Mourinho, quando si metteva a sedere Lippi. Sì, casseggiava, insomma, i suoi colleghi erano sempre molto teneri con Lippi. Molti si dimenticano però che è stato allenatore campione del mondo, cioè, insomma, qualche titolo. Siccome qualche non è che ne vinciamo tanti, qualche titolo c'era anche. Non è che ha fatto proprio fiasco in tutta la sua esperienza dura, né in tutta la sua carriera di allenatore. Poi questo dei colleghi teneri con Lippi, io ero qui a parlare con voi durante i mondiali, però insomma, al di là del fatto che con Marcello Lippi ho ho un buon rapporto, insomma, non dico che sia mio amico, però è una persona che stimo molto, diciamo così. E detto questo, non è mai stato simpatico alla stragrande maggioranza degli italiani, nemmeno quando ha vinto il mondiale, figuriamoci dopo il Sudafrica. Borsa, poi di nuovo qui 800240024, numero verde, a dopo. A tempo di sport. Torniamo sempre qui vicino a me, Fabrizio Ferrari, per parlare di mercato, ma non solo, naturalmente. Certo. E sai, ti ricordi prima che ti ho detto, poi magari di Diego parliamo con un signore che lo ha allenato. Sì. Alberto Zaccheroni, buongiorno. Buongiorno Alberto. Oggi buongiorno. L'avrai letto anche tu, leggo sulla Gazzetta dello Sport l'intervista di Luca Caramà e Alberto Zaccheroni. Tre consigli per le sue ex. Allegri deve imparare a convivere con Berlusconi, Del Neri non deve aver paura di Del Piero e Benitez ci pensi bene prima di portare Mascherano nello spogliatoio nero-azzurro. Complimenti Alberto. No. Mi sembrano, rilievi precisi. Penso che che Allegri debba saper convivere con una figura come quella del presidente del Milan. Sì. Io ci ho vissuto 3 anni, sulla mia esperienza mi permetto di dare questo tipo di consiglio. Sì, sì, sì. Il presidente è un presidente esterna e io credo che insomma, abbia anche il diritto sia del proprietario poi di esternare, quindi credo che l'allenatore questo lo debba accettare. Quello che non deve accettare assolutamente invece è promesso sulle scelte. Sicuro, questo sicuro, ecco. Devi difendere il suo orticello come ha detto lei, Fabrizio. No, intanto saluto il mister, sono Fabrizio Ferrari. Ciao, mister. Fabrizio, ciao. Buongiorno, è un po' che non lo vedo. E poi io sono d'accordo con lui perché il presidente è veramente una figura piuttosto ingombrante e per un allenatore giovane che arriva lì non è facile gestire questo tipo di rapporto senza farsi inglobare oppure cercando di mangiare lui il terreno davanti a sé, per cui è veramente complicato, non sarà un'avventura facile per Allegri. Alberto, io arrivo invece a 2 punti su cui non sono poi così d'accordo con lei, volevo confrontarmi. Il primo è Ronaldinho. A me sembra, lei sottolinea che è ancora giovane ed è vero, però a me sembra non abbia più fame, almeno non di calcio. L'altro è Del Piero, io lo vedrei bene a questo punto in un altro ruolo all'interno di un club di cui è una bandiera, perché il campione non si rassegna. No, allora, per quanto riguarda Ronaldinho, io credo che se un allenatore riesce a sostenere il suo poco dinamismo, sia il centrocampista offensivo, chiamiamolo così, che sa meglio innescare i movimenti delle punte. Sì. È chiaro che avendo 2 punte, una di peso, una molto offensiva come Pato e un trequartista offensivo come e poco dinamico, poco collaborativo come Ronaldinho, bisogna saperselo permettere. Certo. Ecco, allora è chiaro che se giochi con 3 centrocampisti diventa un po' difficile avere continuità. Io sono del parere, spesso ho utilizzato 3 giocatori dalla metà campo in su, evitando di richiedergli dei ripiegamenti o degli interventi di difensiva. E la soluzione l'ho trovata schierando alle spalle di questi 3 giocatori offensivi 4 centrocampisti. Sì, sostanzialmente sì. Il modulo del mister 3-4-3. Il modulo Zaccheroni. Assolutamente. È stato al Milan e all'Udinese. Sì, sì. Ecco, perché avevo tre giocatori che erano bravi se potevo utilizzarli da metà campo in su. Sì. Poi dopo i tre difensori diventa costretto perché in 12 non si può giocare. No, ma io concordo col mister perché purtroppo Ronaldinho, come dice il mister, ha 20 minuti di dinamismo e 70 in cui guarda la partita. E se no diventa una tassa da pagare. E esatto. La paghi tutte le partite, i dividendi arrivano una volta ogni tanto. Esatto, insomma. Purtroppo sì, perché pur essendo, come dice il mister, un grandissimo campione e con una tecnica non è inarrivabile, purtroppo il dinamismo non ce l'ha più, per cui se lo devi sopportare, come dice il mister, devi trovare un metodo o un modulo che te lo permette, altrimenti onestamente non è presentabile. Certo, ma è semplicemente questo. E, mister Diego, a me non dispiace. Quanto riguarda Del Piero, io sì, ecco, Del Piero. Ho detto mi sembra, se non ricordo bene, mi sembrava che l'argomento riguardasse la disponibilità sua all'interno dello spogliatoio, la funzione sua, il comportamento suo, se gioca o non gioca. Io ho precisato solamente che, pur essendo stato il giocatore più sostituito nell'arco dei miei 3 mesi e mezzo, sì. L'ho trovato molto collaborativo, molto positivo, ha preso spesso posizione anche all'interno dello spogliatoio e quindi da quel punto di vista mi sono permesso di parlarne bene. Sì, sì. Dal punto di vista del rendimento, dal punto di vista tecnico non mi è stato chiesto nulla, quindi sì. È chiaro che lui non è più giovanissimo e è chiaro che deve capire che non può giocare sempre, ma penso che questo lo sappia. Però credo che nel momento in cui un allenatore non lo fa giocare gli debba anche, trattandosi della storia della Juventus, credo che gli debba delle spiegazioni sulle motivazioni, perché non lo utilizzi tutta la partita o addirittura non lo escludi totalmente da quel tipo di gara. Sì. Credo che sia il minimo per un giocatore col suo passato, la sua importanza in quel club e anche il suo peso nei confronti della tifoseria, perché sappiamo che ha un peso specifico elevato. Certamente. Comunque, del è un ragazzo intelligente, io credo che se un allenatore gli parla onestamente, penso che almeno a me non ha creato alcun problema. Volevo chiedere di Diego. Diego a me è un giocatore che piace, adesso probabilmente partirà, insomma la Juventus non sa cosa farsene di questo giocatore che, ripeto, a me pare un buon giocatore, ma un giocatore di difficile collocazione tattica, a meno di non credere in lui fino in fondo e costruirgli una squadra intorno. Beh, io questa mattina la mia opinione è stata non riportata correttamente, cioè o in parte correttamente. Io ho detto che Del Piero e Diego sono due punte, sono da considerare due punte in quel contesto, no? In quel contesto di gioco che vuole attuare Del Neri. Sì. Ma non sono simili, cioè Del Piero è una seconda punta che, non essendo più dinamico, deve giocare sempre più vicino alla porta. Mentre Diego è un giocatore che predilige giocare tra le linee. Sì. Sì. Chiamiamolo trequartista. Sì. Diciamo che Diego nel ruolo di Snyder potrebbe rendere al meglio? Diego nel ruolo di Snyder può rendere al meglio, però ha bisogno di attaccanti che vadano dentro. Certo. Non certo. Di faticatori delle fasce. Certo. Di corridori di fasce. Cioè uno degli uomini che vadano davanti alla porta. Sì, perché lui, almeno il Diego che ho avuto io, davanti alla porta ci andava poco senza palla. Certo, appunto. Ecco, infatti secondo me, come dice il mister, secondo me, e qui mi prendo la responsabilità, Diego, per questa Juve non va bene. Anche no, se per quel tipo di gioco, anche se il mister ha fatto notare che lui aveva messo Stankovic finto esterno nell'Inter. Beh, questo è un cavallo di battaglia. Esplose alla Lazio quando io misi in ruolo esterno sinistro, che rientrava. La Lazio lo regalò alla Fiorentina, poi la Fiorentina lo rimandò indietro perché non aveva l'ingaggio e io lo riciclai in quel ruolo alla Nedved un po', no? Sì, quindi il giocatore che parte da sinistra, copre sinistra, poi dopo è libero di svariare. Sì. Mister, le chiedo ancora questo, prima di lasciarla ai suoi impegni, Amauri è diventato un po' il simbolo di questa nazionale dalle larghe intese, no? Prandelliana. Sì. Però il discorso Ryundin nazionale, il discorso di di Amauri che voglio il Brasile, poi adesso voglio l'Italia, eccetera, non piace molto agli ascoltatori. Io sono dell'idea che quelli bravi e funzionali e che servono a un progetto azzurro e possano essere chiamati perché con le carte in regola debbano essere presi in considerazione. No, ma hanno le carte in regola per essere chiamati, quindi giusto così. Cioè, hanno il passaporto italiano, è giusto chiamarli. Dopo uno può fare una questione così, morale, no? Ecco, leggere che l'inno canta la nazionale italiana mi suona un po' così. Mi suona un po' così. Poi dopo, se guardiamo prima di tutto viene il risultato, va bene. Sì. Va bene tutto, ecco. Però sì. Amauri è un giocatore che alla nazionale può dare tanto, Certo, appunto. Può dare tanto. È incappato appunto in una stagione sfortunata perché ha subito due stiramenti, però è un giocatore che sa fare un pochino tutto là davanti. Mister, io la ringrazio, è sempre un piacere parlare con lei. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao Fabrizio. Grazie ad Alberto Zaccheroni. Stankovic aveva fatto tu il contratto, dicevi? No, alla Fiorentina lavoravo nell'agenzia che fece il passaggio tra Lazio e Fiorentina. È stato molto divertente perché siamo andati lì, abbiamo fatto tutto e il giorno dopo ci hanno detto guarda, come se niente, come fosse. Se niente fosse. Arrivederci, come grazie. Non detto, arrivederci, grazie. Come non detto. Enzo, provincia di Frosinone, Fabio da Bergamo, Pietro da Pescara. Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo fare il mio intervento, la mia opinione, soprattutto la volevo legare al discorso dei settori giovanili e riportare un po' quella che è stata la mia esperienza. Sono il papà di un giovane calciatore che ha militato nei campionati giovanissimi nazionali e abbiamo visitato anche qualche società maggiore per visionare il ragazzo. E diciamo le difficoltà, io ho ascoltato solamente la fase terminale del discorso che è stato fatto prima, che parlava delle competenze tecniche degli allenatori del completamento. Sì. Il discorso è un po' è ben più ampio, perché giustamente il calcio, il nostro sport nazionale può ripartire dai settori giovanili, dai nostri ragazzi, ma con un cambio di mentalità dei dirigenti. Le posso assicurare che ci sono tanti giovani validi, ma la scelta di questi giovani è molto, purtroppo, molto limitata ed è direttamente proporzionale a quello che è il sistema di scelta a modo Italia, cioè molto clientelare. Guardi, quindi questo guardi Enzo, tra l'altro la sento abbastanza male, io non lo so, non mi addentro in queste cose, non so come vengono fatte le scelte. Io quando mi parlano di investire in settori giovanili, che è un termine molto vago, dico, secondo me in che cosa dovrebbero consistere questi investimenti? Ripeto, e come ha detto Mino Favini, e sul punto penso siamo tutti d'accordo, al di là del clientelismo, tutte queste cose, strutture e istruttori, questi sono i due punti chiave, secondo me. Secondo me manca una cosa, scusami se ti interrompo, la struttura, come dici giustamente te, è decentrare le strutture, perché il problema vero è che le strutture sono in certe parti d'Italia e in altre no. Esatto. E allora quello che dice il nostro ascoltatore è che in alcune parti purtroppo non escono giocatori perché non ci sono le strutture. No, ma certo. È solo quello il problema. No, su tutto il territorio nazionale, cioè un club avveduto si fa gli accordi con club satellite, eccetera, eccetera, investe in istruttori e in strutture che sono adeguate all'altezza. Traffico. A tempo di sport. Dunque torniamo con un sacco di ascoltatori come ogni giorno, un sacco di messaggi al 349-238-6666, c'è anche chi scrive ma con il modulo di Allegri al Milan non sarebbe il top Diego alla Cossu, chiaramente senza Ronaldinho, potrebbe essere certamente un'idea. Fabio, Bergamo, Pietro, Marco, Michele, popolo di A Tempo di Sport, buongiorno Fabio. Buongiorno a lei, buongiorno al suo ospite. Dica. Faccio subito una battuta. Qua chi ci tocca Favini e maestro Bonifacio. Non li tocca nessuno. Prego. Non li tocca nessuno, stia tranquillo. No, perché ho sentito che li volevano portare in nazionale e sono caduto dalla... Ma part-time. Facciamo consulenza. Quando smette con l'Atalanta. Quando non ha più voglia di lavorare con l'Atalanta. Dica. Non c'è problema. Dica. Io purtroppo mi lascio il discorso che sicuramente avete già fatto nei giorni passati per quanto riguarda i famosi oriundi nazionali. Sì. Io non mi trovo assolutamente d'accordo per quanto riguarda Amauri e Camoranesi, perché li considero così dei non convocati nelle loro rispettive nazionali. Cioè, io sono più convinto di convocare gente come fossero Özil, Boateng, la Germania, cioè cresciuti nei settori giovanili, per cui avendo tutto il diritto, non so dire, nazionale italiana. Ma questi qua sono arrivati a 20 anni, 21, quindi che cosa hanno di italiano? A parte i lontani parenti, forse. No, ma il rilievo ecco, averne di Özil, di Khedira, di questi, non ce ne abbiamo. Li avremo fra 7-8 anni. Convinto? Sì, perché ci saranno i figli dei senegalesi piuttosto che... Sono come San Tommaso. No, quando lo vedo ci credo. quanto questo, insomma, averne di quelli. Adesso abbiamo comunque dei giocatori, ripeto, che sono eleggibili. Tutto sommato, alla fine, Amauri è uno che gioca in Italia da 10 anni. Quindi a 30 anni gioca in Italia da 10, ha costruito qui la sua carriera. Questo non vuol dire che è italiano, perché è brasiliano e non c'è dubbio, però è eleggibile per la nazionale italiana. Dunque io non trovo, ripeto... Camoranesi più o meno simile. Camoranesi che adesso deve pagare la multa perché ha zoppato uno 16 anni fa in Argentina, fantastico. È chiaro che sì, questo si presta a molti rilievi, però io ritengo che nel 2010, se un giocatore può essere chiamato e ha le carte in regola, ripeto, non ha rubato i documenti da nessuna parte, non li ha comprati, ne ha diritto... L'unico principio che secondo me resta sacro è quello dell'unicità della scelta, escludente. Quindi se uno dice di sì ad una nazionale, quella resta per tutta la vita. Questo non si cambia, ci mancherebbe altro. Quanto al resto, mi sembra che l'ascoltatore sia grosso modo sulla linea Lega, no? Prendiamo gli scarti di Argentina e Brasile, non è esattamente così. Pietro Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono uno sportivo argentino, volevo dire che per me... Togliere Diego è un errore madornale, come è stato quello di togliere Henry Vieri nel tempo, che ha sempre reso questa Juventus più debole. Sì. Cioè, io penso che Platini ci ha messo 5 mesi a venire fuori, no? Veniamo da un anno disastroso e adesso ci togliamo un giocatore che potenzialmente è validissimo. Sì, per metterci chi? Un Krasic che non conosce il nostro campionato. Però Pietro, in linea di massimo sono d'accordo con lei, perché ripeto, me l'ho detto prima anche a Zaccheroni, Diego a me è un giocatore che piace, però capisco il fatto che sia un giocatore che per caratteristiche sia un po' difficile da collocare in valore assoluto, perché non è un giocatore semplice da collocare. Sì, è difficile, e poi ha ragione anche il nostro ascoltatore, però sono due casi diversi. Innanzitutto la Juventus dei tempi di Platini aveva un allenatore che cambiava ogni 5 anni. Sì, adesso, sì. La Juventus di adesso cambia allenatore ogni 6 mesi/1 anno. Sì, e quindi ogni allenatore ha un modulo diverso e cerca un giocatore con determinate caratteristiche. Sì. È solo questo il problema, non si discute la validità di Diego. Detto questo, io ci punterei forse a Juventus, me lo terrei lì ancora una stagione con quello che l'hanno pagato e vediamo cosa, se da seconda punta, se da... Io se lo danno al Wolfsburg e si prendono Dzeko, lo do al Wolfsburg. Ma non si prendono Dzeko. E chi l'ha detto? Loro, io con loro, Dzeko no. Vediamo. Vediamo. Beh, forse a quel punto lì forse anch'io. Vedi. Forse io lo do anch'io. Marco Milano, buongiorno. Buongiorno, io vorrei porle una domanda e fare una considerazione. Sì. Sono un tifoso interista, sulla nazionale dico che se la legge permette che Mauri giochi in nazionale non vedo qual è il problema, da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista etico mi sembra un discorso abbastanza sciocco, voglio dire, e star lì a vedere se sta Lino o non sta Lino, non lo sanno neanche gli italiani. Ma guardi, Marco, su questa storia del Lino sfondo una porta aperta, io l'ho detto 1000 volte, a me non importa nulla di quelli che lo cantano, di quelli che non lo cantano, mi sembra una cosa molto stucchevole, molto demagogica. Beh, io ieri sono arrivato anche a dire che a me piacciono i giocatori, mi piacerebbe vedere una squadra composta, perché mi piace leggere la concentrazione sulla faccia dei giocatori, che questi cantino o non cantino, non sappiano le parole, mi sembra veramente una questione di confine e di retroguardia, quindi da questo punto di vista sono d'accordo sul primo punto e anche sul secondo. Michele da Torino, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire un attimo sulla questione degli oriundi e quant'altro. Cioè, io credo che vorrei capire se questo problema, se vi siete mai chiesti se questo problema se lo sono posti in tutti gli altri paesi. Cioè, questo è un problema che si pongono soltanto in Italia. Cioè, un paese tutto italiano, cioè un problema tutto italiano. Sì, questo problema non se lo sono posti né 40, 50, 60 anni fa, tantomeno se lo pongono adesso. Cioè, che ci piaccia o non ci piaccia, purtroppo queste sono le direzioni, purtroppo, non so, forse anche meglio, sì, sono le direzioni che ha preso il mondo. Cioè, la globalizzazione, questa parola che si abusa sempre, non è altro che l'accorciare le distanze tra tutti. Noi siamo tutti vicini di casa. Cioè, l'immescolare delle razze, purtroppo porta a questo. Cioè, che ci piaccia o no? No, ma lei, guardi, sono d'accordo su tutto, tranne che sul purtroppo. Perché non ci trovo niente, ripeto, non ci trovo niente di perverso in questo discorso. Io volevo arrivare. Cioè, io la cosa da fare è non è passare come si fa folklore, come tante le forze politiche o qualcun altro le fa, dire ah no, cioè queste sono stupidaggini. Bisogna prendere le cose migliori, le esperienze migliori e progredire verso le intenzioni migliori. Cioè, queste sono, cioè, parlare ancora di queste cose qua vuol dire rimanere indietro di 50 anni. Poi, per quanto riguarda le regole, allora discutiamo sulle regole. Se nel rugby, quello che va nel rugby in Italia vale dappertutto, cioè non è che in Italia ci trattano diversi, diversamente dagli altri. Cioè, bisogna capire o le cambiano le regole o anzi, se ci piace. Anzi, le dico che ottenere il passaporto italiano, la naturalizzazione in Italia è molto più difficile di quanto non accade in altri paesi, piuttosto il fenomeno distorto è adesso in molti paesi dell'est europeo, dalla Macedonia ad altri paesi dove ottenere passaporto è semplicemente una questione di giorni, no? Più o meno, è vero, più o meno. In Belgio confermi. 4 anni, lo so per certo, in Macedonia probabilmente in altri paesi ti facilitano. No, ti dico, nel basket ci sono giocatori americani che da un giorno all'altro prendono passaporto e vanno a giocare in nazionale, ma da un giorno all'altro, questo sì è eccessivo. In Italia mi sembra che la legge sia complicata. Molto più, molto più severa. Adesso però, caro Fabrizio, ti piace andare in moto? Io purtroppo non guido la moto, mi piace tantissimo però. Ti porto io. O volentieri. La guido tutti i giorni. Sport e motori. Per la verità sarebbe ben meglio ci portasse il nostro ospite vicino, a un passo, non ancora conquistato, ma a un passo dal quarto titolo mondiale di cross. Tony Cairoli, buongiorno Tony, grazie. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Sta arrivando il titolo? Dai, manca veramente poco, siamo quasi all'ultima prova e... Per me è l'ultima prova, perché avendo tanti punti di vantaggio, ecco, posso vincere un qualche gara d'anticipo, speriamo. Sì, in Brasile, prossimo appuntamento 23 di agosto, se no poi ce ne sono altri per provare a chiudere questo discorso. La cosa paradossale, leggevo, Tony, e stiamo parlando di nazionali, la cosa paradossale è che la nostra superstar non vestirà la maglia azzurra della disciplina, cioè non farà il motocross delle nazioni. Il perché però mi sfugge. Il perché, guarda, io ovviamente essendo sponsorizzato, ecco, per tutto l'anno da KTM e da altri sponsor che abbiamo nel team, essendo, diciamo, sponsorizzato da questo team, più che altro, dal team che mi segue, che durante l'anno ha questi sponsor sulla maglia, e purtroppo noi per una gara all'anno, cioè, ci viene, diciamo, viene negata dalla maglia azzurra, che ha gli sponsor persone, diciamo, della federazione, quindi va in contrasto un po' col team. Io ho dato la mia disponibilità, ecco, per partecipare alla nazione, che è sempre per me un motivo di vanto, ecco, di essere italiano. Cioè, la maglia azzurra tu la vorresti mettere? Guarda, questo qua io non devo sempre seguire quello che dice il team, perché questo sì, questo sì, questo per, sì, per piacere. La maglia azzurra è sempre bella vestirla, sicuramente è sempre un onore, quindi purtroppo ci sono delle cose burocratiche che tra di loro, tra team e federazione, vanno viste tra di loro. Ecco, io purtroppo sia io che l'altro pilota Filippaz abbiamo sempre, gli ultimi anni, avuto questo problema, ecco. Ho capito, ed è un peccato. Ti mando Fabrizio Ferrari, che è un bravissimo avvocato e procuratore, magari lo risolviamo. Senti Tony, in Repubblica Ceca hai dominato nell'ultimo weekend, adesso sempre in Repubblica Ceca nel weekend si corre il moto mondiale. Lorenzo, imprendibile secondo te nella corsa al titolo? Ma sai, Valentino purtroppo dopo l'incidente ancora non è facile rientrare al top della forma, Lorenzo è in un periodo buono, sicuramente sta avendo dei grandissimi risultati e adesso è molto molto molto motivato. La mente, specialmente anche nel trasporto motoristico, serve tanto, ecco, risolve tanti piccoli problemi che magari con le vittorie, ma anche se ci sono problemi, ecco, vengono risolti mentalmente, ecco, quindi lui è molto motivato e quindi sicuramente sarà difficile da battere. Tony, io ti ringrazio e ti do appuntamento a Cose Fatte, eh? A Cose Fatte ci risentiamo. Bocca al lupo. Ok, dai. Grazie, Crepi. Grazie a Tony. Ciao. Comunque non ci vado in moto con Tony Cairoli. Non ci vai in moto con lui. No, ma l'hai visto che salti fa? Non ci vado in moto con lui. Superstar, io ci vado tutta la vita, in moto piace andare a impazzire. Grazie a Fabrizio Ferrani, tornato grazie a voi. Adesso appena il calciomercato ti lascia un po' di tregua, sì. Ti riconvochiamo. Grazie a Laura Vanossi per il lavoro in redazione, a Filippo Auregi in regia. Ci sentiamo domani alle 2, stasera gioca l'Italia, quindi indovinate un po' quale sarà l'argomento di domani. Ci sentiamo.